Ehi, il Jamie Tights, rispondo ancora che vuoi. C'ho ancora un po' di veleno per voi. Punta grattacieli come la Bad Boy. Flow Machiavelli, calo col match point. Il mio flow per te è una tortura. Puoi portare chi ti pare, tanto non dura. Fuori bianchi, dentro negri come in Honduras. Le facciamo finché ci scattiamo col turbo. Quando entro sulla base, questi ancora che mi guardano. Non sono capace, quindi chiudono lo scandalo. Sulle basilette faccio il vandalo. Ricorda che sono una giota, tu senza andalo. Con due etti divento etti. Sotto funghetti, se mi permetti. Metto i lucchetti sopra i versetti. Solo se smetti, ci fai contenti. C'è chi frate, fammi provare. Sputo 20 versi con flow particolare. Così se li senti, posso farti volare. Papà, questi esce, molla gli altri, compare. Metto la palla in buca, c'ho il numero 9 come Battistuta. La mia gente parla di merda perché l'ha vissuta. Per questo quando ti sento ogni mio frate sputa. Aumento l'alimentazione, prendo fuoco l'alimentatore. Chi si inventa storie, gli sputa rallentatore. Ogni sei parole ti do di pensare come inventatore. Metà uomo, metà clone, faccio il seratore. Sotto il segno del dragone schivo ogni sera nuove bare. Che per fare impieghi il tempo che il pianeta muore. Frate di sta merda mi hanno appena letto senatore. Frate di sta merda mi hanno appena letto imperatore. Quando monto, sembra di stare in un altro mondo. E pensa che non ci faccio manco moto. Mi mando tutte a casa finché gratto il fondo. Flow killer, drug dealer. Non pensare che finisco, ne ho mille. No macchine, no bille. Che te pensi che ho firmato con Skrill? Siamo tanta roba. Il triangolo, a.k.a. gli altri artisti piangono. Scusa. Dani, sai quanti dischi mancano? Che prendo una barca, con 3 grammi infilati dentro la scarpa. So che i miei fratelli che li accendono all'alba. Non amo la strada perché vengo dall'Afra. Ciao. Le tecniche che cerchi tu, so se faccio un pezzo sopra buccia. La denuncia te ti brucia, che spacco, pure se sbaglio la pronuncia. E non colpo di Mauser, tu un taser, quante barre scrause. Che palle, mi consiglio delle pause. Piaggi in ogni singolo, sembra che la sindrome è di Munchausen. Le rime che cerchi io le sputo, le archivio. Fai cagare quando rappi studio dal vivo. Se mi sbaglio ritorno sono vendicativo. Living Dead, Bad, il vampiro. Torna dalla morte, da carote, sale dalle catacombe. Scala il monte, il tuo bro scappa forte, spara forte. Perché sa che nel flow è una colte, spacca calotte. Spiego troppo finché non pizzo, non fumo, lo più chiudo gli occhi. Hiroshima, scavo troppo tipo letta, salgo in vetta, scaccio bombe tipo Vietnam. Indocina, scemo in fara la gavetta, tiro Cina, ci ricambia la manetta. Tipo Cina, li mangiamo tipo l'Eminem, MJ, sono tipo Re Kenshiro, vescire Mila. No, io non finisco se non questi dicono che non ho voglia. Fanno come quella tipa che non dice che non traio. Poi si ingoia i miei coglioni come dei ravioli. Perché dice sì come valsoio quando me li ingoia. Mentre guido metto la seconda lei che mia seconda mi diventa tipo una sequoia. Mentre bevo cogna cazzo che vergogna da mezz'ora tiro sta rotonda. Ogni pari un missile balistico di Putin. Ho uno stile fisico quantistico di chiudi. Per rifarlo pure se impossibile non ho visti i tributi. Rappo per altri 20 minuti. Metricamento autistico, vanguardistico. Fatto lo scientifico, mica l'artistico. Sto con la batti di gonfio no, papiri. Davide di là che gira papiri. Ok, ok. Cappa nella stanza, sì, siamo la gancia che ci parla. Diamo la faccia a pezzi, mamma, ci diamo la traccia a pezzi. Guarda chi siamo, no, guardi i prezzi, frate, a chi siamo 3-4 pezzi di pacchi. Stanno ci ribattiamo gli occhi al contrario che ribattiamo la parte. Siamo su a pille, guardami che brucio le papille. Sulla base non indugio, sera kill. Voglio demolire, che ti devo dire? Voglio solo morire alle Antille. Non mi voglio accontentare, repo tipo la mavera a coltellare. Ogni pare la mia tavola da contemplare. Da domani Ramadan, non so peppare. Lascio la madama che è pronta a entrare.